Allora, per presentare la serata di questa sera, vorrei premettere che come centro di documentazione contro la guerra, il nostro operare sulla Palestina, come su tutta una serie di altri argomenti, è quello di fornire degli elementi di analisi, di studio, di documentazione che siano di utilità per fornire la base, gli elementi degli ulteriori ragionamenti e delle posizioni di classe, delle posizioni conseguenti su una serie di questioni. Sulla questione palestinese, che è fondamentale, noi partiamo dal presupposto che è in corso una pulizia etnica in Palestina ad opera dello Stato sionista di Israele, che questa avviene con la collaborazione delle democrazie occidentali, con la collaborazione più o meno marcata, magari si parla tanto di altri paesi che non sono allineati con le democrazie occidentali o con i paesi, come i paesi arabi, si parla tanto ma non si muove un dito in realtà in sostegno dei palestinesi, come abbiamo visto, e che quello che purtroppo manca da noi nel mondo occidentale, che consente il genocidio in corso, è il fatto che non ci sia un movimento proletario che scenda in piazza, che impedisca quello che sta avvenendo, che blocchi, che abbia la forza di bloccare quello che sta avvenendo, a cominciare da quello che fa il nostro imperialismo, l'appoggio politico, militare, sociale che viene dato dal capitalismo italiano. Centrodestra e centrosinistra da oltre 20 anni sono schierati con Israele, parlano del diritto di difendersi a Israele, al massimo ci raccontano che Israele cede, ma non fanno nulla, anzi sono direttamente corresponsabili di quanto avviene. Non ne abbiamo parlato nella riunione precedente di questa collaborazione tra Italia e Israele, noi pensiamo che questo vada bloccato, e abbiamo cercato di dare in quell'occasione, anche oggi su un altro argomento, elementi di ragionamento, di informazione, di approfondimento. Quello di cui parliamo oggi e che vede come ospite Mohamed Younis è quello che abbiamo definito gli arabi di Israele in questa situazione, e abbiamo messo arabi tra virgolette, volutamente. Se uno fa una ricerca in internet oggi su chi sono gli arabi di Israele, salta fuori la propaganda che fa vedere formalmente che sempre di più gli arabi di Israele sono dalla parte dello Stato di Israele. Gli arabi di Israele, tra virgolette, non esistono, sono i palestinesi di Israele, sono i palestinesi cosiddetti del 48, lo spiegherà molto meglio Mohamed, e sono quelli che sono rimasti in Israele dopo la Nakba del 48. Dopo la guerra che ha portato alla prima grande espulsione di palestinesi. C'è tutta una storia di questa popolazione, che sono circa 2 milioni, se non sbaglio, oggi, e che continua a vivere in Israele in determinate condizioni. Mohamed vuole parlare in italiano, interverrà in italiano. Lui ha studiato in Italia, ovviamente vive in Palestina, quindi non parla correttamente israeliano e israeliano italiano, scusate, e eventualmente ci spiegheremo. Noi abbiamo pensato di organizzare la serata con una sua introduzione sulla questione dei palestinesi in Israele, e poi già noi abbiamo preparato delle domande, chiediamo a tutti in presenza e online di fare delle domande sulla questione degli arabi israeliani, di rimanere sull'argomento. Una cosa, e chiudo qui. Noi cerchiamo di dare il massimo risalto a questa cosa per quanto ci riesce, e facciamo anche online queste riunioni. Quindi chi vuole intervenire deve venire a farlo, per favore, qui di persona. Se non vuole parlare al microfono per qualunque motivo, eccetera, ci scriva l'intervento, la domanda, lo fa fare qualcun altro, ma noi iniziamo a parlare da fondo sala, che non si capisce più niente, perché è importante che sono anche le registrazioni, cose che rimangono su archive e che potranno essere, che sono consultate successivamente. Do subito la parola a Mohamed. Grazie a te, grazie a tutti gli amici e compagni che mi hanno invitato per intervenire questa sera. E mi fa piacere che la questione palestinese sia ancora sull'ordine del giorno della gente qua in Italia, ma anche in altre parti del mondo, anche se la salita della questione palestinese sull'ordine del giorno è venuta dopo eventi tragici che sono successi nell'ultimo anno a Gaza e in Palestina in particolare. Come inizio io vorrei dare un background, qualcosa di storico sugli arabi israeliani, come li avete definiti sull'invito, sulla locandina. E dopo parliamo degli eventi che succedono in questi giorni. Per quanto riguarda gli arabi israeliani, questa è una definizione che per noi sembra una parolaccia, insomma, chiamare un palestinese arabo israeliano sembra una parolaccia. Ed è stata una definizione che il governo israeliano ha deciso di chiamare i palestinesi che sono rimasti dentro i confini di Israele dopo la guerra del 48. E questi palestinesi erano 145.000 circa, e dopo gli accordi di Rodos nel 49 un altro pezzo della Palestina è stato regalato a Israele dal re di Giordania Abdallah, e casualmente io appartengo a quel pezzo di terra che è stato regalato, altrimenti sarei stato della Cisgiordania se non fosse stato fatto quell'accordo. E quindi i palestinesi che sono rimasti dentro il confine di Israele erano nel 49 185.000 circa, dove vivevano maggiormente nella Galilea e nella zona centrale che è stata regalata dal re di Giordania. Normalmente la chiamiamo triangolo, ma non è una forma geometrica, perché parecchi villaggi di questo territorio appartenevano al triangolo Tul Karem, Nablus e Jenin, che storicamente si chiamano il triangolo della resistenza per il ruolo che hanno avuto durante la rivolta araba del 1936-39. Uno può anche porsi una domanda: perché questa popolazione è rimasta in Palestina? Tutti gli altri sono stati espulsi e loro sono rimasti lì. Allora ci sono diverse opinioni, una che è sostenuta da Ilan Pape ed altri, che dice che in pratica l'esercito israeliano era esausto, non ce la faceva più a combattere dopo mesi di guerra, e quindi per gli israeliani un accordo di cessato il fuoco, di dividere il territorio eccetera eccetera poteva in quel momento andare bene. E un'altra opinione, ci sono diverse opinioni, io porto la mia, essendo un architetto, un pianificatore del territorio, ho messo la piantina dell'accordo della risoluzione 181 delle Nazioni Unite sulla cartina dell'attuale Israele, e vediamo che in pratica tutti i villaggi che non sono stati cacciati via facevano parte dello Stato arabo secondo la risoluzione dell'ONU. E tutti i palestinesi che erano dentro lo Stato a maggioranza ebraica, secondo quella risoluzione, sono stati cacciati via, tranne due villaggi che non stiamo qua a spiegare perché e come. E non so il motivo esatto, però fatto sta che i palestinesi sono rimasti lì. E il giorno dopo, nel 48, appena sono state fatte le elezioni in Israele, e il governatore, diciamo, i ministri, il governatore che deve prendere decisioni, chiedeva a Ben Gurion, che era il primo ministro, ma cosa facciamo con questa popolazione? E lui ha inventato il regime militare che è stato istituito nei villaggi arabi e palestinesi. In pratica i militari gestivano la popolazione arabo palestinese per 20 anni, il che vuol dire che un arabo palestinese, per uscire dal suo villaggio, andare a visitare i suoi parenti nel villaggio accanto, doveva prendere il permesso dall'esercito. Per coltivare le terre doveva prendere il permesso dall'esercito. Per andare a lavorare in una città, a Haifa o a Nazareth o qualsiasi altra città, doveva prendere il permesso dall'esercito. Per 20 anni la popolazione palestinese era sotto un regime militare, fino al 66. Un anno prima della guerra del 67, Israele decide di lasciare perdere questo tipo di governo e passare allo Stato civile, insomma, e di lasciare i palestinesi, di gestire i palestinesi come si gestiscono i villaggi e gli insediamenti degli ebrei. Anche qua ci sono diverse opinioni, qualcuno dice che in pratica c'era in piano l'occupazione della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e si doveva trasferire tutto il personale dell'esercito che si occupava dei villaggi arabi in Cisgiordania e a Gaza, e per cui hanno cambiato il modo di gestire il territorio e i villaggi. E altri dicono che in pratica ha fatto il suo dovere, perché questo sistema di governo doveva raggiungere determinati obiettivi. Uno è la confisca dei terreni, e sono stati confiscati la maggior parte dei terreni dei palestinesi. L'altro è impedire ai palestinesi di creare una leadership unificata, e tramite questo regime di permessi di movimento hanno impedito alla creazione di una leadership unificata, nazionale, che rappresentativa, che rappresenta tutti i palestinesi che stanno dentro il territorio di Israele. E quindi non c'era nessun senso di continuare con questa cosa. Negli anni 70, quando c'è stato un momento di c'è stato un momento di libertà, di un movimento dei palestinesi, sono state create parecchie organizzazioni locali. Tipo i sindaci dei paesi palestinesi hanno creato un comitato, hanno iniziato a agire insieme, a rivolgersi al governo con decisione, chiedere i loro diritti, eccetera, eccetera. E gli studenti palestinesi hanno creato organizzazioni nelle varie università e piano piano insomma queste limitazioni che hanno caratterizzato il periodo del regime militare sono un po' sparite. La speranza di miglioramento della situazione dei palestinesi dentro Israele non è derata tanto, perché nel 1977 il Likud è salito sul potere in Israele per la prima volta dopo 30 anni di dominio dei laboristi, e lì la situazione è iniziata a peggiorare per tutti. Per cui posso citare alcune caratteristiche del fine degli anni 70 e inizio anni 80, per esempio la creazione di gruppi terroristici ebraici che hanno fatto degli attentati contro i sindaci delle città palestinese, le città maggiori in Cisgiordania. Se vi ricordate Fahd El Qawasmi, Bassam Shaka, Karim Khalaf, sindaci di Nablus, di Ramallah, Al Bir, Bethlehem ed altri, gli hanno messo le bombe nelle macchine. Un attacco che è stato fatto a fine 1980. Qualche anno dopo, un terrorista proveniente dagli Stati Uniti che ha fatto degli attentati terroristici in America, immigrato in Israele, scappato in Israele, Meir Kahana, Rabino Kahana, un fascista dichiarato, ed è riuscito ad essere eletto al Knesset israeliano come deputato, e quindi per essere eletto vuol dire che c'è il sostegno popolare di una dottrina, di un modo di pensare, di un modo di fare, e i voti non sono arrivati dai coloni sono arrivati da città normali, che nessuno si aspettava che i voti arrivassero da quel posto. Vuol dire che in pratica la sua idea era accettata da parecchi israeliani. Subito dopo c'è stata la guerra del Libano, Sabra Shatila, e anche lì i palestinesi e israeliani sono usciti nelle strade a protestare, e qualche anno dopo è arrivata l'intifada del 87-88, e quel momento in pratica viene considerato il momento di riunificazione del popolo palestinese. Da quel momento, se qualcuno accettava di essere chiamato arabo israeliano, da quel momento iniziavano a rifiutare questa denominazione, e quindi la linea verde, per chi non conosce, è la linea che divide la Cisgiordania da Israele, territori occupati nel 48 dai territori occupati nel 67, è sparita nella coscienza popolare. La gente iniziava a parlare di un popolo palestinese unito, di una causa palestinese unita, e quindi sono nati partiti palestinesi nuovi, movimenti palestinesi nuovi, e nello stesso periodo c'è stato un miglioramento nell'accesso all'educazione superiore. Fino a quel momento quasi tutti noi, per studiare alle università, dovevamo andare all'estero, perché non era difficile avere un posto alle università israeliane e non avevamo nessun contatto col mondo arabo. È vietato agli israeliani, ai portatori del passaporto israeliano, di andare nel mondo arabo, per cui non avevamo nessun contatto col mondo arabo. E l'unica via per studiare, per avere educazione, era andare all'estero. Anch'io sono rappresentante di quei studenti che sono andati all'estero. E piano piano iniziano ad avere accesso all'università israeliana. E quindi c'è un miglioramento nell'educazione e nella formazione professionale. E gli arabi, palestinesi, cittadini e israeliani iniziano ad avere posizioni molto importanti nel settore della sanità. Per esempio, se andiamo agli ospedali israeliani, vediamo che in pratica il personale è composto prevalentemente da palestinesi. I medici sono palestinesi, gli infermieri, eccetera, eccetera. E questo ha dato una sensazione falsa, una falsa sensazione, che in pratica ecco, ci stiamo integrando nella società israeliana, possiamo arrivare a posizioni buone, eccetera. Però il succedersi di avvenimenti di tipo militare, politico-militare in Medio Oriente, la seconda intifada nel 2000, il fallimento di Oslo, la guerra del 2006, l'invasione della Cisgiordania che è successa prima, dal 2000 al 2003, 2004, eccetera, eccetera. Ricordiamoci che in pratica l'attacco a Gaza è un attacco che avviene ogni 2 anni. Ogni 2 anni c'è un attacco massiccio a Gaza, non è una cosa nuova quello che è successo l'ultimo anno. Per cui questi avvenimenti hanno fatto capire in pratica agli arabi che vivono in Israele che in pratica questa speranza, insomma, di convivenza, di essere cittadini uguali a tutti gli altri non è fattibile. Invece abbiamo visto l'avvicinamento di parecchie realtà politiche dentro tra gli palestinesi e cittadini israeliani avvicinarsi al mondo arabo e ai movimenti palestinesi in giro. Nel 2022 c'è stato un attacco massiccio a Gerusalemme, alla moschea Al-Aqsa, all'area della moschea Al-Aqsa, al vicinato di Sheikh Jarrah, al vicinato di Silwan e altre zone a Gerusalemme. Questo ha portato a degli scontri. Scontri violenti tra manifestanti palestinesi e con le forze dell'ordine israeliano. Adesso, se la Cisgiordania è chiusa, Gaza è chiusa, i palestinesi che stanno in Giordania, nel Libano, in Siria non possono arrivare. Gli unici che potevano arrivare a Gerusalemme, protestare ed essere presenti erano i palestinesi cittadini israeliani. Quindi se andavate a vedere la moschea Al-Aqsa di venerdì, centinaia di migliaia di persone arrivavano lì a fare la preghiera, gente laica, gente che non è mai andata alla moschea a pregare, però andavano lì non per motivi religiosi, ma per motivi nazionali, insomma, per difendere quella zona e difendere luoghi sacri e difendere la presenza dei palestinesi. E da quel momento abbiamo visto un peggioramento della situazione dei palestinesi in Israele. Per esempio, ragazze di 17 anni, di 16, minorenne, che hanno partecipato alle manifestazioni, sono stati condannati a 7 anni, a 10 anni di carcere per aver partecipato ad una manifestazione. Ci sono ragazzi che dal 2022 sono ancora in carcere, attendono il processo, però quelle che sono state processate, alcuni di loro hanno avuto una condanna di 15 anni per aver partecipato ad una manifestazione. Non è un atto terroristico, non è un attentato, no. Sono stati lì, per esempio nella via dove vivo io è arrivato un pullman pieno di coloni estremisti di destra e guardavano le macchine, se c'è qualche traccia che questa macchina, io vivo a Haifa, è una città mista, ci sono i palestinesi, ci sono anche gli ebrei. E se c'è qualche traccia, qualche testimonianza, qualche indicazione che questa macchina è di arabi, è stata danneggiata, guardavano sul citofono i nomi delle persone che abitavano nel condominio e attaccavano il condominio secondo i nomi sul citofono, e la polizia proteggeva queste persone che sono arrivate nel pullman da fuori Haifa per fare questa cosa. Se qualcuno si opponeva, veniva arrestato. E quindi c'è stata questa prima fase di intimidazione. Abbiamo notato che in pratica l'atteggiamento e il comportamento delle forze delle ordini sta cambiando, e sta cambiando parecchio. Quando è iniziata la guerra in Gaza, che in pratica tanti la indicano come il 7 ottobre 2023, ma non c'entra il 7 ottobre 2023, perché questa situazione, il deterioramento della situazione, è iniziato molto prima. Per esempio, la media di 2-3 palestinesi uccisi al giorno è dal 2017, non è una cosa. Allora, qualcuno arriva al telegiornale, qualcun altro no, però ogni giorno ai posti di blocco ci sono dei morti palestinesi, ci sono dei feriti palestinesi, ci sono degli arrestati, ci sono i lavoratori che tornano dal posto di lavoro, vengono fermati, derubati, picchiati, torturati al ritorno del lavoro e poi rilasciati, magari nudi anche. E questa è una pratica quasi quotidiana. Il 7 ottobre probabilmente era figlio di questa situazione, non è che è di tante altre. Quando è iniziata questa situazione del 7 ottobre, abbiamo capito che in pratica qua succede qualcosa di molto grave, molto importante. Alcune situazioni politiche hanno cercato di organizzare manifestazioni contro la guerra, senza dire niente oltre. Fermiamo la guerra, fermiamo l'uccisione di persone innocenti, donne, bambini, eccetera, eccetera. Per la prima volta da quando è stato creato lo Stato di Israele, non siamo riusciti, io parlo di 2 milioni di persone, non siamo riusciti a fare neanche una manifestazione, né col permesso e né senza permesso. Anche quando, per esempio, una città palestinese che sta su una montagna, Umm El Fahm, e la strada principale è giù, hanno deciso, normalmente quando facciamo le manifestazioni le facciamo sulla strada statale e blocchiamo la strada statale. hanno deciso questa volta per l'accanimento delle forze dell'ordine, facciamo la manifestazione nel centro storico della città, lontano da tutti. La polizia è salita su, non hanno bloccato nessuna strada, non hanno fatto niente, proprio nel centro storico. È salita su e ha arrestato una quindicina di persone, ha picchiato tutte quelle che erano sulla loro strada. Membri del Knesset palestinese, dei due o tre partiti che sono rappresentati nella Knesset, hanno cercato di organizzare una manifestazione pacifica a Nazareth, vicino alla sorgente di Maria, proprio nel centro di Nazareth, e li hanno picchiati. Normalmente un deputato è protetto, e questa è la sua professione, è pagato per fare manifestazioni, per esprimere la sua opinione. Sono stati picchiati e portati alla questura. Adesso, questa è la situazione di persone che sono hanno incarichi pubbliche, persone conosciute, eccetera, eccetera. Però c'è la gente comune. L'esercito ha fondato una unità per l'internet, per le reti sociali, e controllano i like e i post che le persone fanno su Facebook, Instagram e tutte le reti che conosciamo. E io adesso vi elenco alcune cose che conosco, persone che conosco personalmente. Per esempio, una mia collega, una docente di criminologia all'Università di Gerusalemme, ha postato il 10 ottobre, il 12 ottobre 2023, un post di 3-4 parole, una frase, una mini frase. E cosa dice? Dice che in pratica quello che fa Israele nella striscia di Gaza è un crimine. Prima gli studenti e poi membri del Knesset si sono rivolti al preside dell'università e hanno cercato di sospenderla. In effetti è stata sospesa. Nadira Shalhoub Kovarkian, professoressa conosciuta in tutto il mondo e molto gradita dagli studenti, da tutti. Un'altra donna, anche lei docente e anche cantante, Dalal Abu Amni, ha scritto un post con una mini frase, un'altra mini frase. Ha scritto Maghalib illallah, e questa vuol dire che il vincitore è sempre Dio. Una frase che diciamo che in pratica quando io sono impotente, non so cosa fare, quando vedo qualcosa di non buono che succede, io non ho nessuna forza di cambiare, dico Dio avrà i suoi motivi, i suoi ragioni. È stata quasi un anno e mezzo, agli arresti domiciliari per una frase così. Proprio non ha scritto niente oltre a questa frase. E guarda caso, questa qua ha il marito medico, direttore di un ospedale vicino a Nazareth, in una comunità ebraica. E siccome è il direttore dell'ospedale, voleva vivere vicino al posto del lavoro, quindi ha preso una casa in una città ebraica. Hanno fatto manifestazioni sotto casa per mandarle via, proprio ogni giorno, prima per andare all'ospedale a 300-400 metri, doveva avere la scorta. Un altro esempio, una infermiera che lavora ad un ospedale di Haifa, e ha scritto un'altra frase dello stesso tipo, non sto qui a a tradurre. Frasi che si dicono quando uno non sa cosa fare, proprio che si sente impotente. E sono venuti 20 poliziotti all'ospedale, l'hanno arrestata davanti a tutti. In questo caso poteva invitarla alla questura, andare a casa sua. Non è una cosa urgente, non è una cosa che mette il pubblico in pericolo, insomma, se non la arresta in questo momento, però volevano far vedere a tutti che sono decisi che da oggi in poi non potete più comportarvi come siete abituati. E l'hanno arrestata, è stata, non mi ricordo quando, non ho fatto seguito, insomma, è stata parecchi mesi in carcere e così via. Per esempio, insegnante all'università, c'è un mio collega ebreo, ha espresso la sua opinione in una discussione, gli studenti hanno mandato una lettera, al preside e hanno chiesto di cambiare, di sostituire il docente perché dice che quello che succede a Gaza non va bene, Israele deve comportarsi diversamente. E in pratica nell'ultimo anno l'impressione che in pratica noi palestinesi, se c'era questa speranza, insomma, di vivere integrati nella società israeliana, di far parte di qualcosa di diverso, questa speranza che io non ho mai avuto, però parecchie persone si illudevano, insomma, di poter vivere e convivere in questo stato. Nell'ultimo anno è proprio la maggior parte dei palestinesi non ci crede e più. E questo per quanto riguarda cose che sono cambiate dopo l'inizio degli avvenimenti a Gaza. Però ci sono cose che continuano, che c'erano prima e continuano, e continuano in maniera massiccia. Per esempio, le demolizioni delle case. Da quando Israele è stato creato, che le case dei palestinesi vengono demolite. Perché? Perché Israele non fa piani regolatori per i paesini, i villaggi, i comuni palestinesi. E una persona ha il diritto alla casa, insomma, è un diritto basilare. E costruiscono case sulle loro terre, non è a terra di qualcun altro. Hanno l'oliveto vicino a casa, costruiscono una casa per i figli, eccetera, eccetera. E le case vengono demolite. Però, se fino a 3-4 anni fa, per demolire la casa bisognava ottenere il permesso dal giudice, la commissione urbanistica andava dal giudice, faceva una richiesta, il proprietario della casa aveva diritto a rispondere e delle volte tirava fuori, tirava avanti per anni e anni, e nel frattempo riusciva a fare un piano regolatore o qualcosa del genere, sistemare le cose, magari pagare un magari una multa. Negli ultimi mesi è stata cambiata la legge e adesso alla commissione urbanistica può mandare i mezzi per demolire la casa senza andare dal giudice. In pratica l'impiegato diventa il giudice, sostituisce il giudice. E la quantità di case demolite è aumentata in maniera impressionante. E queste cose qua all'estero non arrivano le notizie di queste cose, non arrivano all'estero, perché non è una catastrofe, non è una cosa, magari viene considerata qualcosa di interno dello Stato di Israele, perché parlare di queste cose. Però quando ogni giorno sentiamo parlare di 3 case di qua, 4 case di là, eccetera, eccetera, vuol dire che in pratica uno dei diritti basilari viene a mancare. Io come architetto avevo uno studio a Gerusalemme e a un certo punto ho detto io mi trasferisco e chiudo lo studio. E tanta gente mi chiedeva ma perché? Perché vai via di lì? Perché a livello psicologico è difficile resistere a questa situazione. Tu vivi con queste persone la storia della loro casa e tu sai che alla fine non riuscirai mai a difendere la casa, verrà demolita. Una volta, forse l'ho detto anche nell'intervento l'altra volta, quando mi sono intervenuto via video, e ho chiesto questa cosa qua all'ex sindaco di Gerusalemme, che è un ex primo ministro, Ehud Olmert. Gli abbiamo chiesto, ma noi presentiamo mi sembra nel 2001-2002, quel periodo lì, noi presentiamo i piani sono perfetti, prendiamo i miglior professionisti, ma perché non vengono approvati? E lui mi ha risposto proprio come vi traduco adesso la sua risposta. Ogni palestinese di Gerusalemme deve pensare che la prossima casa che sarà demolita è la sua. E quindi deve impiegare tutte le sue forze per difendere la casa. Non deve pensare a altro. E questa situazione sta peggiorando. Per esempio, l'uso dei piani regolatori per limitare i palestinesi. È molto bello fare un piano regolatore orientato alla natura, a difesa della natura. Cosa vuol dire? Per esempio, se c'è un villaggio, noi possiamo fare un poligono con le case esterne del villaggio e fare un piano dentro, però tutti i territori attorno li dichiariamo aree verdi da difendere, da conservare, non importa che tipo di difesa del verde o conservazione del verde, eccetera. Delle volte sono dichiarati come bosche, delle volte cos'altro. E guarda caso, questi piani attorno ai paesi arabi sono verdi, attorno agli insediamenti ebraici sono territorio da sviluppare. Territori agricoli, territorio di urbanizzazione futura, colori diversi. Attorno agli arabi è sempre verde. Verde più scuro, più chiaro, con definizioni diverse, però alla fine è un verde che limita l'uso del territorio. Un altro esempio di limitazione, matrimoni misti. Se un palestinese o una palestinese, cittadino israeliano, si sposa con uno della Cisgiordania, non gli danno la carta d'identità, non gli danno la residenza. Per cui in pratica per tirar su una famiglia è quello che sta in Israele che deve andare in Cisgiordania. E non il contrario. E questo a cosa porta? Alla fine questo porta alla deportazione della popolazione. Non ti dicono vai via, non ti cacciano via, però non ti impediscono di scegliere il partner con cui vivere, perché non ti danno il permesso. Okay. E tante pratiche di questo tipo che alla fine rendono la vita dei palestinesi dentro lo Stato di Israele molto difficile. Io preferisco fermarmi qui in questo momento e poi quando ci sono delle domande magari rispondo. Sì, allora noi avevamo in mente di farsi qualche domanda, ma quella, una delle prime domande che consisteva nel chiederti il comportamento, chiamiamolo così, degli arabi che vivono e lavorano in Israele, come avevano subito e vissuto la guerra e la pulizia etnica che si svolgeva a Gaza e che si svolge adesso in Cisgiordania. Mi sembra che tutta la serie di esempi che tu hai portato un po' ci hanno descritto, seppur individualmente rispetto a persone che tu conosci, la situazione. Quindi al limite potrai farci un'altra considerazione, pensavo di passare a un altro piano, cioè che, e parlando di piano viene immediatamente il piano di Trump, che sarebbe quello per la trasformazione di Gaza, che potrebbe farci ragionare sulle politiche pubbliche del territorio, ma di questo, che non è altro che, qualora possa anche realizzarsi, ma non sarebbe altro che la continuazione della guerra con altri mezzi, potremmo parlarne un po' più avanti. Invece, molto probabilmente che rapportato e connesso a questa grande idea, diciamo così, forse può essere più interessante se tu sei in grado di descriverci il continuo processo di espulsione e l'insediamento dei coloni nei territori palestinesi. Per quanto riguarda la pulizia etnica di Gaza e come l'abbiamo vissuta da noi, come dicevo, chiaramente la sofferenza era tanta. E la popolazione si è organizzata, hanno raccolto cibo, vestiti e da altre cose, insomma, coperte, eccetera, eccetera, per la gente che è stata un anno all'aperto. E in pratica non era possibile far passare questi aiuti alla gente, alla popolazione di Gaza. Però non solo questo, in pratica tutte le organizzazioni che si sono occupate di Gaza sono state perseguitate dall'esercito. Le persone che si occupavano di raccogliere aiuti a Gaza sono state interrogate, sono state invitate a presentarsi in questura. Alcuni sono state accusate di appoggiare il terrorismo perché tu mandi aiuti a un gruppo terroristico, gli aiuti venivano considerati aiuti per Hamas, quindi sostegno a Hamas, quindi sostegno al terrorismo, e vai a spiegare che in pratica tu fai un aiuto umanitario, eccetera eccetera. E normalmente ci sono delle organizzazioni che si occupano di informazione, di mandare notizia all'estero, di contattare ambasciate estere, eccetera, eccetera. Anche loro sono stati fermati e impediti di lavorare, proprio sono stati minacciati dall'esercito. E dall'altra parte, e hai fatto bene quando hai fatto la domanda, hai detto quello che succede a Gaza e in Cisgiordania, perché la gente parla di Gaza come se fosse tutto tranquillo in Cisgiordania, ma la situazione in Cisgiordania in continuo fermento, l'esplosione è vicina. Per esempio, io faccio parte del consiglio di amministrazione di una associazione di pianificatori per i diritti umani, BIMCOM, sul posto la traduzione del nome di questa associazione, e abbiamo 3-4 sezioni, una che si occupa del Negev, la deportazione dei palestinesi, dei beduini palestinesi nel Negev, una che si occupa di Gerusalemme Est, che sta subendo un processo massiccio di ebraicizzazione e di deportazione della popolazione, e una che si occupa delle zone C. Ma immagino che la maggior parte dei presenti qua conoscono l'accordo di Oslo, la divisione della Cisgiordania in zone A, B, C. Israele controlla le zone C, e nelle zone C ci sono parecchie popolazioni beduini, seminomadi, o anche contadini seminomadi che si spostano nelle stagioni, nelle varie stagioni a secondo quello che coltivano. I nostri ragazzi che lavorano per l'associazione andavano lì a dare sostegno, a dare aiuto, e negli ultimi 2 anni non riescono ad arrivarci, hanno paura di arrivarci, perché quando arrivano lì trovano i coloni stanno lì, che torturano le persone, che li minacciano, che rubano pecore. Arrivano lì, gli rubano le pecore, proprio a questo livello. Se trovano un pastore palestinese, prendono tutto quello che ha, lo lasciano andare senza niente. Quando, per esempio, durante il giorno la gente va via a lavorare, eccetera, vanno lì, demoliscono le case. Le case non sono case fisse, perché questa popolazione seminomada, insomma, non ha le case. Le demoliscono le case, tornano e non sanno dove andare a dormire. E quando i nostri ragazzi arrivano, questi qua li minacciano, li menano, non li lasciano fare il loro lavoro. Se rivolgono alla polizia, lì in pratica in quelle zone opera la guardia di frontiera con corpo della polizia, però sono militari, anziché fare il servizio militare fanno la guardia di frontiera, e quelli lì dicono: noi abbiamo ordini di difendere i coloni, per cui vi consigliamo di non arrivarci, di non venire. E quindi parecchia popolazione è stata già espulsa. La polizia etnica è in processo, succede tutti i giorni in Cisgiordania, e con frequenza sempre più e sempre maggiore, insomma, negli ultimi 2 anni. Adesso, per quanto riguarda il piano Trump, non so se è pazzo o non è pazzo, ma comunque lui dice, poi alla fine succede qualcosa. I piani per Gaza sono nati prima di Trump, per cui non è questione di presidente pazzo, è proprio politica estera degli Stati Uniti. E cambiano i jolly, cambiano i presidenti, però questa è una politica estera. E da parecchi anni si parla di espulsione dei palestinesi, per esempio di creare una zona per i palestinesi vicino a Aqaba, e costringere l'Arabia Saudita di dare una parte nella zona settentrionale dell'Arabia Saudita. Per esempio, c'è stata la guerra, chiamiamola così, la rivolta, la guerra, quello che è in Siria, e non è stata fatta pulizia etnica al campo profughi di Yarmouk. I palestinesi sono stati cacciati via. E anche lì si parlava di mandare i palestinesi nella zona di Aqaba e nella parte settentrionale dell'Arabia Saudita, e creare una zona nel Sinai. Anche lì si è parlato parecchie volte di creare una zona industriale per i palestinesi, darle da lavorare in quella zona lì, a condizione di uscire, spellerle insomma dalla striscia di Gaza. Per cui per la gente locale non è una cosa nuova. La cosa nuova è, in pratica, è il parlare in maniera diretta, chiara, è una cosa che non si faceva prima. Ecco, su questo piano, prima di andare a parlare un attimino anche dell'interno di Israele, perché come ben sappiamo in tutti i vari processi dove il conflitto assume la forma della guerra, noi abbiamo sempre cercato di tenere un occhio particolare all'interno di quelli che promuovono la guerra, cioè com'è lo Stato all'interno. Ma prima di chiederti di questo, e per terminare un po' il passaggio che riguarda soprattutto la questione palestinese, volevo sapere da te in che rapporto è la governance degli israeliani con l'autorità nazionale palestinese. Sì. Diciamo che in pratica all'interno di Israele c'è un consenso per quanto riguarda la questione palestinese. In pratica i palestinesi sono terroristi, Hamas sono terroristi, e sono aggressori, e noi dobbiamo difenderci da queste creature non civili, per non dire animali ed altro, probabilmente avete letto, avete sentito. E qua non si distingue tra destra e sinistra, chiaramente chi segue la questione israeliana sa che ultimamente non si può indicare una sinistra consensente in Israele. Il Partito Laborista da molto tempo non è di sinistra, è comunque sparito, Meretz lo stesso, e quindi sono rimasti piccolissime realtà di associazioni, Bezzelem, Yash Gvul, che voi conoscete, che BIMCOM, l'associazione di cui faccio parte io, ed altri, che controllano la situazione, denunciano, fanno arrivare notizie all'estero, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda l'autorità nazionale palestinese, maggior parte dei partiti operanti in Israele credono che l'autorità nazionale palestinese ha terminato il suo ciclo, quindi bisogna passare a qualcos'altro. C'è chi lo fa in maniera diretta, per esempio Smotrich, il ministro della finanza, non passa i soldi. Adesso, per l'opinione pubblica israeliana, loro pensano che questi sono soldi israeliani che arrivano alle autorità palestinesi come aiuto, però queste sono le tasse dei palestinesi. I palestinesi non hanno un sistema per raccolta di tasse, per esempio tasse che si pagano quando vengono importati prodotti dall'estero, eccetera, eccetera. Tutto viene pagato tramite il sistema israeliano, e loro devono passare questi soldi all'autorità nazionale palestinese perché non hanno questo sistema di raccolta delle tasse. Israele lo trattiene, e spesso l'autorità palestinese non ha da pagare gli stipendi. Uno. Due, c'è un sistema di servizi sociali. Per esempio, 70 anni di combattimenti, di guerre, di eccetera, eccetera, ci sono tanti prigionieri e tanti feriti e tanti martiri che hanno moglie e bambini che sono rimasti senza padre e non hanno da dove mangiare. E Israele ha posto delle condizioni all'autorità nazionale palestinese di eliminare tutto il sistema di welfare, okay? Di eliminare questo sistema e di non dare più sostegno. Io dicono, ma vogliamo ammettere che questa persona qua, come dite voi israeliani, è un terrorista e voi l'avete messo in carcere. Cosa c'entra il bambino di 5 anni, di 6 anni, il figlio? Noi vogliamo dare sostegno a questo ragazzo. E Israele ha posto questa condizione. Noi non vi passiamo i vostri soldi a meno che non fate queste cose. E negli ultimi mesi io non ho sentito parecchie persone in Israele parlare bene dell'autorità palestinese che deve rimanere, perché fino a qualche anno fa qualcuno dice l'alternativa a Hamas è l'autorità nazionale palestinese, dobbiamo mantenere questa autorità perché sono più sani di mente, si può parlare con loro. Ultimamente proprio nessuno li conta e per gli israeliani come come complesso diciamo di partiti, di opinioni eccetera, l'autorità nazionale palestinese ha finito il ciclo e io vedo la fine insomma dell'autorità nazionale. Ci sono ad Hamas, tu hai una percezione più chiara vivendo lì, che tipo di consenso c'è o come se ne parla, che posizionamento c'è rispetto a questa forza, perché sfugge, no? Sembra che non si vedono a Gaza, sai che ci sono, si organizzano, però tu mi parlavi dei prigionieri, del consenso che sta avendo tra i giovani, ecco, solo una specifica su questo. Non ho capito, su Hamas in Cisgiordania? Ma anche a Gaza, cioè come, che tipo di... Sì. Se c'è consenso, che cosa si pensa? Allora, per quanto riguarda Gaza, Hamas è molto presente, la popolazione di Gaza è molto conservatrice e Hamas è entrata... diciamo in un momento di protesta, insomma non è che ha vinto le elezioni casualmente, è stato un momento di protesta contro l'autorità nazionale palestinese e contro gli accordi di Oslo, contro un governo palestinese corrotto, anche collaboratore con gli israeliani. E quindi è stato un voto di protesta, però dopo un po' di anni di governo Hamas è riuscito a tenere Gaza in maniera diciamo sì. Ed per quanto riguarda la Cisgiordania, che anche lì c'è stato un voto di protesta e tante persone erano contro al-Fatah e contro l'autorità nazionale. Però con l'aiuto di Israele c'è una collaborazione evidente tra Israele e l'autorità nazionale. Vengono perseguitati i capi del jihad islamico, i capi di Hamas, e le branche militari di entrambi i gruppi in Cisgiordania, Anche il fronte popolare quasi non esiste in Cisgiordania, il fronte democratico da parecchi anni è sparito e non c'è alternativa. Il problema della Cisgiordania è che non c'è alternativa. E parecchi agenti di Hamas ultimamente si nasconde perché sanno che se uno si espone viene perseguitato, se non dagli israeliani allora dall'autorità palestinese, e quindi si tengono nascosti. Però ammettiamo, domani ci saranno le elezioni, muore Abu Mazen, ci sono le elezioni, non c'è alternativa. È proprio quello che ha riuscito a fare l'autorità nazionale palestinese, che ha eliminato qualsiasi tipo di discorso di resistenza in Cisgiordania. Non c'è resistenza. E alcuni personaggi che io conosco personalmente, io ho dei contatti diretti con alcuni dell'autorità, dicono questo è il nostro ruolo, noi abbiamo firmato un accordo e con questo accordo noi dobbiamo tenere la sicurezza di Israele e basta, il periodo della resistenza è finito, lo dicono proprio persone con cariche molto importanti. Sì, e hanno la polizia. Purtroppo tante volte prima che Israele entri nelle città palestinesi ad arrestare ricercati, chiamiamoli così, l'autorità palestinese fa il lavoro di fondo, insomma, li segue, fa monitoraggio dove sono, dove vanno, arrivano e sanno dove pescarli, insomma, non è che... Per cui la situazione è pessima, non c'è speranza. Però per continuare il discorso, questa è una pentola a pressione, insomma, posso portare a questa situazione, io parlo della gente palestinese, un anno, due anni, tre anni, poi alla fine esplode la situazione anche in Cisgiordania, e credo che nell'ultimo anno c'è stato, negli ultimi due anni, se ricordate gli avvenimenti di Nablus, insomma alla Kasbah di Nablus, e adesso quello che succede al campo profughi di Jenin, credo che prima o poi esploderà. Tulkarem c'è stato qualche mese fa un attacco massiccio anche a Tulkarem. Prima o poi esploderà questa situazione. Sì. Sì, infatti, almeno di quello che possiamo capire qui da noi, con poche informazioni, quindi le letture sono sempre molto insufficienti, Jenin è anche un esempio di una resistenza che non guarda né all'autorità nazionale palestinese né ad Hamas. Esatto, esatto. Qua lì c'è jihad islamico e ci sono persone che si definiscono resistenza e basta. Non... Se poi qualcuno in sala vuole fare la domanda, però deve venire qui perché quelli che ci ascoltano, sia perché sono collegati o perché ascoltano tramite streaming... Io volevo perorare la causa dei beduini con cui sono in contatto con Negev Coexistence Forum for Civil Equality. Sono state intensificate moltissimo le demolizioni ed è stato cambiato anche da quello che mi hanno raccontato. Prima demolivano una casa alla volta per non dare nell'occhio, eccetera. Adesso buttano giù un villaggio intero senza pietà. E la cosa che a me ha fatto più impressione è il non diritto al rifugio antibomba. Per cui quando arrivano i razzi, che siano della Jihad, che siano degli iraniani, che siano di Hezbollah, loro possono essere colpiti. C'è il caso di quella bimba che in aprile è stata tra la vita e la morte. Poi invece volevo fare una domanda. Hadash, sono quattro gatti o con questa situazione possono radunare più gente che in passato? Allora, per quanto riguarda i beduini, quello che dicevo prima con i piani regionali, i piani regolatori che chiudono i villaggi palestinesi con le aree verdi, è stato fatto in piano ultimamente del Keren Kayemet l'Israel e il Jewish National Fund di creare aree verdi nel deserto. Strano, ma è così il piano, di creare aree, bosche, eccetera, in una zona dove non c'è acqua e non c'è piantagioni, non ci sono alberi. E hanno colorato dove ci sono i beduini aree verdi e attorno aree per insediamenti futuri, e stanno dando queste aree a organizzazioni di insediamento per ebraicizzare il Negev. Un villaggio che io ho seguito personalmente nel 2000, ho fatto un piano regolatorio per il riconoscimento di Umm El Hiran, a sud di Hebron, al nord di Beersheba. Abbiamo fatto questo piano e abbiamo presentato a un pianificatore che faceva il piano di tutta la regione del Negev, che tra l'altro è un mio conoscente, ho votato per lui all'elezione dell'ordine degli architetti, eccetera. E mi ha detto sì, è un ottimo piano, ci sono 2000 persone che vivono in quel posto in quel momento. I beduini si moltiplicano ogni 13 fino a 15 anni, per cui se erano nel 2000 circa, adesso saranno minimo 5000 persone che vivono lì. E hanno fatto il piano, hanno fatto un punto sulla mappa di un determinato colore e hanno scritto sotto insediamento futuro. Noi abbiamo festeggiato perché abbiamo detto, abbiamo presentato piano e quel punto lì non era segnato, adesso segnato, quindi appena approvano il piano regionale noi presentiamo un piano particolareggiato per quel posto lì. E guarda caso, con l'approvazione del piano, il governo ha presentato un piano per un insediamento ebraico sulle case dei beduini. E lì è stata una vittima, qualcuno è morto, gli insegnanti di scuola gli hanno chiamato, hanno detto sono venuti a demolire la tua casa, andato di corsa a vedere, a prendere un po' di roba che sta dentro la casa e la polizia l'ha sparato. Questo è un caso molto conosciuto. Adesso per la protezione della popolazione beduina durante la guerra è vero, però non solo beduini, tutti i paesi arabi non sono protetti, non sono rifugi, non ci sono. Sì, tanti posti non ci sono. Casualmente ho fatto per alcune organizzazioni una ricerca sulle città, non solo i paesini, le città. Per esempio, Jaffa fa parte oggi del comune di Tel Aviv, infatti si chiama Tel Aviv Jaffa. Abbiamo fatto una ricerca dove ci sono rifugi pubblici e a Jaffa non ci sono, a Tel Aviv ci sono. Per cui quando suona la sirena, se tu vivi a Jaffa, e probabilmente sei palestinese, e vai a coprirti nelle scale perché è l'unico posto dove puoi scappare. Lo stesso anche a Acca, a Haifa, e a Lod, Ramle, tutte le città storiche palestinesi. E chiaramente c'è una spiegazione, perché queste città o centri storici delle città abitate dai palestinesi è stato costruito molto prima, 100 anni fa, 200 anni fa, 300 anni fa, sono centri storici. E quartieri ebraici che sono stati costruiti dopo, per cui magari hanno previsto la disposizione di un rifugio o di qualcosa di protettivo. Però tra gli arabi questa cosa non c'è. Infatti, per esempio, i missili di Hezbollah dal nord, maggior parte delle persone che sono state uccise sono palestinesi, non israeliani ebrei. Magari nel conteggio dicono sono morti 50, però 40 sono palestinesi, perché i missili che cadevano nei villaggi palestinesi senza protezione, mentre in altri posti erano protetti. Volevo chiederti una cosa che abbiamo trovato, una specie di sondaggio che è stato fatto tra i palestinesi e i territori occupati dall'Istituto per il Progresso Sociale ed Economico palestinese, e tra le tante cose che loro andavano a chiedere alle persone, una era interessante: soluzione dopo la guerra di Gaza quest'estate, quando ancora si pensava ci potesse essere forse un governo dell'ANP su Gaza, cose del genere, che la popolazione sia a Gaza sia in Cisgiordania e Gerusalemme avrebbe visto con maggior favore un governo diretto da Marwan Barghouti che qualsiasi altra soluzione. Sì, però adesso non sono pettegolezze. Però quando c'erano diciamo le discussioni sullo scambio di prigionieri in Cisgiordania scherzavano, dicevano che l'unica richiesta dell'autorità nazionale palestinese nel negoziato è di non liberare Marwan Barghouti, di lasciarlo dentro. Per cui, chiaro, c'è una certa popolarità, era attivo nelle giovanili di Al-Fatah, è stato carcerato, tutti gli altri collaboravano con gli israeliani, ha una certa popolarità, però è dentro il carcere, per cui possono rispondere nel sondaggio che vogliono Marwan Barghouti, intanto Marwan Barghouti non c'è. Una persona che potrebbe unire i palestinesi, perché viene considerato un personaggio di Al-Fatah ed è accettato anche dai pochissimi che sono rimasti del fronte popolare, del fronte democratico, anche da Hamas. Nel carcere io personalmente vengo da una famiglia di tanti carcerati, per cui conosco storielle personali. Nel carcere Marwan Barghouti ha lavorato molto a cucire i rapporti tra le varie frazioni palestinesi dentro il carcere, e hanno scritto un documento e l'hanno mandato all'autorità nazionale palestinese e al governo di Gaza prima della guerra per cercare di cucire qualcosa. Quindi sì, è una persona accettata, però non credo che sia sì, non è possibile. Uno in carcere non può. Volevo fare due domande. Secondo quello che tu hai esposto, la prima cosa che mi è venuta in mente è questa. Diciamo, fino a un po' di anni fa, ancora adesso comunque dal punto di vista dell'opinione pubblica, quello che oggi diciamo tutti si vantano per sciacquarsi la bocca è quello di fare una sintesi di tutti i problemi, la questione palestinese, due stati, due popoli. Allora, cerchiamo di capirci bene su questa cosa, perché rispetto a tutto quello che tu hai detto, io credo, una cosa del genere non è possibile. E non so se era possibile prima, oggi non è possibile, oggi negli ultimi anni, diciamo, soprattutto per quello che è successo poi adesso. Quindi ci sarebbe l'altra posizione, uno Stato, due popoli. Ma da tutto quello che tu dici, da tutto quello che è successo, trovo impossibile anche questo. A meno che c'è un qualcosa che a me sfugge, no? Quindi una prima domanda, diciamo, sarebbe oggi qual è una possibilità? Perché io penso che appunto poi è anche questo, no? Cioè, qual è la luce dove bisogna andare a incanalare tutta la resistenza? E l'altra cosa, scusa, perché è tutto collegato, io credo, per esempio per quello che dici tu adesso per quanto riguarda l'Organizzazione Nazionale Palestinese, che dici che è interessante quello che hai detto, cioè che finisce un ciclo da un punto di vista politico, diciamo di proprio indirizzato al discorso di due stati, due popoli, no? E questa cosa ormai si è consumata, ormai era farsa prima e questo è venuto fuori alla luce. Rimarrebbe l'altra possibilità, che è quella che i palestinesi possono ritornare a essere nella loro terra, i padroni della loro terra, nel momento in cui non ci sarebbe Israele, perché c'è l'altra ala, diciamo, come posso dire, più radicale, che pone questo, ma questa cosa la vedo molto molto difficile, quindi è un bel casino. E questa cosa non è, io non ritengo banale cercare di discutere, di capire questa cosa. L'altra questione un'altra questione era questa: in questo momento, nel momento in cui l'Organizzazione Nazionale Palestinese, diciamo, è quella che è insomma sputtanata, parliamoci chiaro, dal punto di vista di leadership politica in questo momento, per quanto mi riguarda, visto che c'è Barghoubi che dice in carcere, una possibilità di poter unire tutte le varie frazioni, in questo momento quello che io capisco, da ignorante su questa cosa, una leadership politica in questo momento rimane Hamas. È Hamas. Perché Hamas comunque ha rimesso comunque l'attenzione a livello internazionale sulla questione palestinese. Però Hamas si è presentata da un punto di vista, per esempio con l'azione del 7 ottobre, no? Dove alla fine, come posso dire io, mi metto dalla parte del diavolo, no? Ha dato fiato a tutti i reazionari, no? Per dire, ecco, questi sono terroristi, ok? Noi qui non c'è discussione politica. Una domanda semplicemente banale solo per mia curiosità, ma da punto di vista politico, se Hamas il 7 ottobre, penso che ne avranno parlato, cioè non è che sono cose che qualche fuori di testa che sia andato a fare questa roba, avesse preso tutti i prigionieri, avesse fatto tutti i prigionieri e quindi avrebbe, come posso dire, cercato di obbligare a trattare con Israele, a parte la liberazione di prigionieri palestinesi, no? Ma da un punto di vista, diciamo così, di immagine, dal punto di vista internazionale, come diciamo solidarietà, cioè far prevalere un concetto, proprio perché sono delle bestie l'esercito israeliano, no? Diciamo i radicali no, israeliani, come massacrano bambini, donne, non hanno rispetto di niente, trattati peggio degli animali palestinesi, a dire ecco vedete cosa, questo è Israele, noi non siamo come loro. E quindi diciamo così, non avrebbe dato fianco a questa cosa, non so se riesci a capire quello che ti sto dicendo, no? Da un punto di vista politico non sarebbe stato più vincente questa cosa. Ecco, l'unica cosa che volevo chiedere è questo. Grazie. Partiamo, non semplice no, però cerco di dare una risposta. Per quanto riguarda dove state due popoli, io stavo qua negli anni 80 e quando tutti parlavano di due stati, due popoli, ero la pecora nera degli studenti palestinesi che dicevo che era una cosa impossibile. E non è praticabile una divisione del territorio palestinese per diversi motivi, non è sostenibile a livello economico, le risorse dell'acqua, come le gestisce? È difficile, accesso al mare, eccetera, eccetera. E da allora fino a oggi il territorio è cambiato, è stato cambiato radicalmente. Per esempio i coloni, il numero dei coloni è aumentato e non tutti i coloni sono di destra radicale o estremisti o violenti. E io conosco parecchie persone che vivono nei coloni, negli insediamenti in Cisgiordania, e sono lì perché gli offrono la casa a 5.000 euro. Tu puoi avere la villa in quel posto lì a pochi soldi. E il sistema stradale ha scritto alla fine degli anni 70, Meron Benvenisti ha fatto l'Atlas della Cisgiordania e ha parlato delle strade. Adesso tu vai nell'insediamento ebraico in Cisgiordania, da Tel Aviv all'insediamento, e torni, non vedi palestinese, perché ci sono due sistemi stradali, quello vecchio usato dai palestinesi e quello nuovo che si basa su nuove strade o su strade preesistenti che adesso è vietato ai palestinesi di utilizzarle. L'apartheid esiste da parecchi anni in Cisgiordania, c'è una segregazione, una separazione razziale molto evidente, per cui parecchia gente da Tel Aviv va a vivere in quella zona perché è un posto dove puoi crescere i tuoi figli, perché costa poco. E hanno le scuole, per esempio, un bambino, adesso no, non prendere il numero, magari sbaglio di qualche centesimo, però un bambino alla città di Rahat, che è una città beduina nel Negev, prende come sostegno governativo del Ministero dell'Educazione qualcosa come 800 shekel. 800 shekel, qualcosa come 200 shekel al euro, come 200 euro all'anno. Questo è quello che dà il governo al comune. E al Canna, che è un insediamento in Cisgiordania vicino a Nablus, prende 5.000 shekel. 5.000 shekel. Che in pratica da 800 a 5.000 la differenza è evidente. Allora, normalmente quando un governo fa finanziamento differenziato, normalmente danno alla popolazione debole più finanziamenti per alzare il livello. non alla popolazione che sta bene, che è in pratica e prendi finanziamenti da altre fonti. Per cui, tornando alla questione due stati, due popoli, non è mai stata una soluzione reale e oggi non può essere una soluzione, perché in pratica quel poco che è la Cisgiordania ormai più della metà è sotto controllo diretto dai coloni degli israeliani. Allora l'alternativa, tu dici, è uno Stato unico per due popoli. E ci sono organizzazioni, ci sono persone che lavorano per questa soluzione. Dalla parte palestinese all'inizio era un po' di scetticismo, però insomma c'è ancora pochissima popolazione che ci crede e lavora in quella direzione. Dalla parte israeliana pochissime persone. Mi sembra che nel 2018 abbiamo organizzato con voi questa conferenza alla statale e c'erano almeno due rappresentanti, anche tre rappresentanti di questa idea di uno Stato unico per due popoli. Allora ci sono situazioni radicali, per esempio Zohrot. Zohrot si definiscono un'organizzazione post-sionista, sionismo è finito, e parlano di uno Stato palestinese unico in cui vivono anche ebrei e palestinesi. Per quanto riguarda Hamas, è difficile dare una risposta se tatticamente hanno agito bene o non hanno agito bene. Questa situazione del 7 ottobre ci ha colto sorpresa, non solo per il risultato ma anche per il susseguirsi di avvenimenti. Per esempio, noi sappiamo con certezza che l'esercito israeliano sapeva di questa cosa. Perché non ha agito? Sappiamo, per esempio, che l'esercito israeliano ha bombardato i kibbutz e c'erano proprio telefonate su WhatsApp di persone che dicono: non bombardare, siamo noi, eccetera, eccetera. Hanno ucciso persone con tipo abitanti del kibbutz con quelle di Hamas o quelle di Gaza, perché parecchie persone sono entrate lì che non c'entrano con Hamas, hanno visto che in pratica hanno aperto il passaggio del posto di blocco di Erez e sono entrate con biciclette, con corkenet, con non so, qualsiasi cosa che avevano. Sì, anche sono andati lì, per cui è possibile che l'esercito israeliano non riuscì a vedere queste cose, che c'è qualcosa che non riusciamo a capire. Secondo me, questo lo dico io, e questo è in pratica il permesso di ingresso nella striscia di Gaza che ha voluto Israele e l'ha ottenuto. Chiaramente è sempre complicata questa affermazione, sono complicate perché se poi si prendono per buone queste valutazioni, poi dobbiamo portarle alle sue estreme conseguenze. Cioè Israele consente a quelli di Hamas di fare questa operazione, perché il suo disegno è così: avere il pretesto per poi intervenire, eccetera, eccetera, eccetera. Però, ritornando alla questione Hamas che chiedeva, e se noi continuiamo col filo di questo discorso, Hamas, rispetto alla popolazione che ha subito e che subisce nella striscia di Gaza, cioè, posso, può avere un giorno che gli possono presentare il conto, perché uno può anche chiedersi, vabbè, ma che operazione avete fatto? Cioè, in che rapporto sta? Cioè, qui era meglio era meglio lasciare stare la situazione di prima, non so come dire. E l'ultima considerazione che riguarda sia Hamas che l'autorità nazionale palestinese, che entrambi, qualora in entrambi i casi sono in una situazione piuttosto difficile, cioè perché in entrambi i casi una delle loro principali attività era svolgere una sezione di assistenza, cioè di welfare, l'uno nella Cisgiordania, l'altro nella striscia di Gaza. Se vengono a mancare o c'è sempre più difficoltà di ricevere finanziamenti, sappiamo poi da dove arrivano i soldi per l'autorità nazionale palestinese e da dove arrivano per Hamas, e insomma la situazione si complica. Cioè, ecco, se portiamo alle estreme conseguenze questo ragionamento, insomma, la situazione è complicata. Per esempio l'UNRWA ultimamente ha subito limitazioni, e quindi ci sono scuole dell'UNRWA, ci sono le cliniche dell'UNRWA, ci sono tanti impiegati, tante famiglie che vivono dal lavoro all'UNRWA, eccetera eccetera, e questa è una situazione che in pratica mette in difficoltà la popolazione palestinese. Il conto da presentare a Hamas è certo, ma chi governa deve anche aspettare questa, come si dice, il giudizio della gente, insomma. Chiaramente la popolazione di Gaza vuole la resistenza e vuole combattere, eccetera, però anche non vuole avventure, insomma, per cui, se tu fai cosa hai guadagnato e cosa hai perso, io non so cosa dire alle 50.000 vittime, al 150.000 feriti, al 10.000 dispersi, al 10.000 che stanno subendo torture dagli israeliani, alle case demolite, agli ospedali che non ci sono più, alle scuole, alle università. Gaza ha la percentuale educativa più alta in tutto il mondo arabo. Non sono gente qualsiasi, gente che è colta, hanno università di altissimo livello, malgrado l'isolamento, malgrado il carcere e tutto quanto, insomma. E questa situazione non c'è più. Per cui anche Hamas deve dare risposta alla gente. È chiaro che in assenza di alternativa, non so se adesso fanno le elezioni, Hamas, io dubito se Hamas si presenta nelle elezioni in Cisgiordania. Si nascondono, lo sentiamo, lo vediamo, si nascondono. E non c'è alternativa. Parlavi di Barghouti, e c'era un altro Barghouti, Mustafa Barghouti, e cercava di cucire tra le varie situazioni e di presentarsi come alternativa. L'ha provato contro Abu Mazen nelle elezioni di ormai 17 quanto anni fa. Sì. Sì, no, non si fanno più elezioni, e adesso se si presenta non lo so se riesce a fornire un'alternativa, perché Al-Fatah ha in mano diverse situazioni, per esempio diverse famiglie che vivono dal lavoro alle autorità palestinesi, e quindi questi qua sicuramente andranno sempre a sostegno dell'autorità. In percentuale dai no. In percentuale la resistenza quanto sostiene? In percentuale la resistenza quanto sostiene Hamas e tutto quanto? Poi ricordavo una cosa, che 7 ottobre, per caso qualcheduno si ricordava che c'erano 270 bambini con meno di 14 anni nelle carceri israeliane in isolamento? No, ha fatto bene Hamas a fare il 7 ottobre. In Cisgiordania, a livello popolare, penso che Hamas ha la maggioranza. A Gaza è chiaro che hanno la maggioranza, però anche in Cisgiordania. Però quello che dicevo io, se oggi Abu Mazen muore perché si demette o fa elezione, non credo, deve morire per fare elezione. Se dovesse morire domani ci sono le elezioni e non Hamas non si presenta, credo. Perché per fare le elezioni deve esporte, sì, oggi stanno arrestando sia l'autorità, sì, gli israeliani stanno arrestando tutti i leader di Hamas, sì, e quindi E ieri parlavamo di questo. Secondo me, se dovesse esserci una reazione, sarà una lista civica, una lista mista, non so, è smascherata, qualcosa che non è mascherata, qualcosa che non ha il nome di Hamas, che non porta il nome di Hamas, che magari ci sono persone di Hamas dietro, però non porta il nome di Hamas. Tu sei stata lì, altri penso che sono stati lì. Qualche mese fa passava il posto di blocco, un anno fa, e ti rompevano le scatole, però insomma passavo. Oggi non è così. Oggi per passare il posto di blocco è una bella storia, controllano la macchina, le scatole se hai dentro la macchina, la carta d'identità, e ti interrogano, eccetera, eccetera. E poi c'è una fila di 2-3 chilometri di macchine che aspettano. E nei campi profughi di Jenin, e anche Nur Shams e Tulkarem, ci sono attacchi quotidiani, li bombardano con gli aerei, magari qua non ne parlano, ne parlano poco, vanno lì, demoliscono le case, arano con l'aratro le strade, l'asfalto. Non riesco a capire, insomma, cosa vogliono ottenere con questa cosa qua. Stanno stringendo parecchio ai palestinesi, impediscono a loro di svolgere una vita normale. E parecchie persone che sono leader del jihad islamico di Hamas sono finiti o sottoterra o uccisi o in carcere. No, però devi venire qua. No, vieni. Quanti oggi avevi fatto nella relazione, avevi detto che erano arrivati, prima erano 145.000 palestinesi in Cisgiordania, poi erano arrivati a 185.000, giusto? Oggi quanti sono? Oggi i palestinesi dentro Israele sono attorno ai 21-23%, qualcosa del genere. I non israeliani, i non ebrei, 2 milioni qualcosa, 2 milioni qualcosa su 10 milioni, Allora, se tu controlli, per esempio, tipo l'Istat, lì si chiama la Hamas, se guardi i dati della Hamas, qualche volta sono 19%, qualche volta sono 25%. Questo è dovuto al fatto che non tutti hanno la cittadinanza. Per esempio, Gerusalemme East, Est Gerusalemme, sono quasi 400.000. Quelli che hanno la cittadinanza israeliana non arrivano a 15-20.000. Quindi sono residenti, però non cittadini. Allora, se tu guardi le statistiche, chiamiamole equivalente all'INPS, allora il numero aumenta, perché sei cittadino e paghi contributi e sei registrato. Se tu guardi la lista degli aventi diritto al voto, allora diminuisce. Lo stesso per le alture del Golan. Le alture del Golan sono siriani. E le alture sono state annesse a Israele, però la popolazione rifiuta di prendere la cittadinanza. Però intanto, per andare per strada, per guidare la macchina, hai bisogno della carta d'identità israeliana. Per lavorare devi andare a lavorare dagli israeliani. Per cui le statistiche non sono precise, e grosso modo sono attorno ai 23% della popolazione, più di 2 milioni su 10 milioni. Volevo solo dire, ma ha fatto venire in mente prima nel suo intervento Mohamed un fatto che lui ha citato, ha parlato del 2018. Nel 2018 Mohamed era qua, venne qui e andò soprattutto all'università, alla statale, portando con sé, facendo da moderatore, due israeliani, Shlomo Sand e Jeff Halper. E per capirsi l'atteggiamento, cosa vuol dire? Shlomo Sand, docente di storia, figlio di sopravvissuti ai lager, nel 2008 scrisse un libro, L'invenzione del popolo ebraico, fondamentale, in cui spiega che tutte le storie sostenute dal sionismo, cioè l'espulsione degli ebrei dalla Palestina, come si è formato dopo la religione ebraica, la popolazione ebraica, eccetera, sono state inventate, è entrato a pie pari in quello che era patrimonio esclusivo in Israele degli storici religiosi, che non dovrebbero fare gli storici politici. Lui lo fece, fece questa cosa con grandissimo scandalo e coraggio, un libro fondamentale anche per contrastare tutte le accuse di antisemitismo e discorsi sul diritto alla difesa. L'altro, Jeff Halper, ebreo americano che vive in Israele, a capo di un'organizzazione che si chiama ICAD, che contrasta tutte le demolizioni delle case dei palestinesi. Ha scritto un altro libro nel 2015, fondamentale, La guerra contro il popolo e la pacificazione globale. Un libro fondamentale per capire perché Israele riesce a farla franca in tutti questi anni. Il modello, di cui abbiamo parlato anche la scorsa riunione, di prodotto sicuritario che viene venduto, polizie, armamenti. L'ultima cosa, l'abbiamo sentita in questi giorni, lo spy system Paragon, cioè tutto questo sistema che va dalle armi provate sui palestinesi, perché se andate sui siti delle ditte di produzione d'armi c'è scritto chiaro e tondo che sono provate sul campo, altro ebreo che ha avuto questo coraggio e questo atteggiamento da avere. E il discorso che si faceva prima, difficilissimo, evoluzione, certo, ci sarà necessariamente un solo Stato con due popoli, non potrà essere sionista. Ilan Pappé, altro ebreo israeliano di coraggio, ha appena pubblicato un libro, Brevissima storia della Palestina, in questi giorni. Lo chiude dicendo: la soluzione è qui, la troverà tra qualche tempo la nuova dirigenza palestinese, i giovani palestinesi, che dovranno dare una soluzione per i palestinesi e per gli israeliani, e saranno loro a poterlo fare, non dall'altra parte. Questa è la curiosità. Dai, dai. Vieni qua, dai. I palestinesi sono semiti? Ma vieni qua. La domanda era, i palestinesi sono semiti? Sì. Se sono semiti palestinesi, confermiamo. C'è ancora di peggio. C'era uno studioso storico con cui lui ha anche collaborato, ebreo, Guido Vallabrega, che ha scritto per prima in Italia sulla lotta del popolo palestinese, di cui tra l'altro ricorre, ormai ieri erano i 25 anni della sua morte. Lui scrisse tutte queste cose, eccetera, venne odiato e veniva definito un ebreo antisemita. Per esempio, quando parlano della Shoah, chi nega la Shoah viene punito. Adesso chi nega il 7 ottobre verrà punito, c'è una legge, una proposta di legge che dice che in pratica non è stata una strage di Hamas, verrà punito, come negare l'olocausto, da stesso livello. Per cui non so come definire questa cosa qua, però hanno il potere di imporre determinato narrativo, insomma, che giova a loro. Sì, volevo tornare ancora dentro all'interno di Israele, no? Perché avevamo notato che sulla stampa israeliana di diverse tendenze, no? Compaiono spesso articoli che descrivono bande criminali molto organizzate in forza nelle zone abitate da arabi. E il cui esito sono assassini, crimini, danneggiamenti, eccetera, eccetera. La polizia normalmente non solo tollera, ma dà questa descrizione di questi avvenimenti dicendo si ammazzano tra di loro. Ecco, tu probabilmente in parte l'hai già un po' descritta questa situazione, ma noi volevamo anche capire, a parte le ragioni sociali che secondo me si possono tenere un attimino da parte in questo caso, ma qual è la forza di queste bande, no? Oltre al fatto di essere tollerate, chiaramente. La criminalità organizzata è iniziata ad essere evidente nella società araba negli anni 70, soprattutto nelle città di Lod e Ramle, anche Jaffa, insomma, ed era un muscolo di popolazione locale un po' persa, perché erano isolati dal resto della popolazione palestinese, un po' di beduini che sono arrivati dal Negev, soprattutto dopo gli accordi di Camp David, e tante persone, tanti beduini sono stati cacciati via dal Negev e sono andati a vivere a Lod e Ramle. E piano piano queste organizzazioni criminali si sono rafforzati, è iniziata una lotta tra di loro e hanno allargato le loro zone di competenza, di operazioni, eccetera, e sono arrivati al centro del paese e piano piano anche al nord. Ciò che sfugge a tanti che in pratica è impossibile avere questi gruppi criminali che sono armati senza la tolleranza o senza l'aiuto della polizia. Facendo un'analisi di chi sono questi criminali, allora normalmente sono collaboratori della polizia, alcuni di loro sono volontari nelle forze dell'ordine. Per esempio, in tanti paesi cioè, fanno le guardie o nominative diverse, però collaborano con la polizia come i vigili urbani, eccetera, nelle ore di sera, di notte, eccetera, eccetera. Sicurati di diverso tipo. Quindi sono persone conosciuti alle autorità, conosciuta alla polizia, collaboratori con la polizia. Questo è, noi conosciamo la guerra dell'oppio, no? E quindi c'è una guerra delle bande armate che succede in Palestina. In pratica la polizia investe su questi gruppi. E oggi quasi in tutti i paesi, in tutti i villaggi abitati da palestinesi, se hai un negozio o hai qualcosa, qualche azienda, eccetera, se non paghi non puoi continuare. E questa è una situazione molto preoccupante. E abbiamo la media di un morto ogni 2 giorni. In pratica 4 o 3 persone uccise ogni settimana nei paesi palestinesi. Una delle dei tassi di criminalità più alti al mondo, insomma, non è che non credo che ci siano poste con questa percentuale. Noi parliamo di una popolazione limitata come quantità. E quindi il legame con la polizia israeliana è evidente, anche loro non, qualche volta non negano. Il ministro della polizia, chiamiamolo così per semplificare, ha un nome molto più lungo, era Ben Gvir. E per lui queste bande criminali erano un buon assistente, insomma, per rovinare la società palestinese dall'interno. Ultimamente i leadership palestinesi dentro il confine di Israele parlano soprattutto di questo. Proprio non parlano di questa è la priorità, insomma, è la cosa su cui lavorare di più, ed è molto preoccupante, fa paura. Economica, che per economica non intendo solo dire il budget statale, il PIL, tutte queste stronzate, ma la popolazione minuta, come sopravvive in queste condizioni, se fossero arabi ma anche israeliani. Non è che gli israeliani stanno tutti bene, ci saranno i poveri, ci saranno quelli indigenti, ci saranno quelli che hanno problemi, che hanno bisogno di una tua idea su questa faccenda. La situazione economica era in crescita negli anni 2010-2020, e poi ci sono state 2 botte, il Covid e adesso la guerra. Durante il Covid chiaramente parecchie aziende hanno chiuso, sono fallite, eccetera, eccetera. E adesso durante la guerra, per esempio, il turismo è crollato a livello quasi zero, insomma, a livello più basso, e il nord, non importa qual è l'attività, il nord è stato paralizzato. Io arrivo dalla zona del nord e so com'è la situazione. Per esempio a Haifa sono arrivate gente del confine col Libano. Io per andare dal mio studio al caffè dove vedo gli amici quasi ogni giorno, ci troviamo a prendere un caffè due volte al giorno verso le 11, verso le 4-5, e passavo davanti all'albergo. Per quasi un anno popolazione che non ha niente a che fare, da fare, vive nell'albergo, non lavora. All'inizio il comune di Haifa non voleva accettare i loro bambini e i loro figli nelle scuole, poi il governo ha imposto alle scuole di prenderli, per cui non fanno niente, prendono un sostegno dal governo. Allora, uno che è dipendente, lavora in un'azienda e non può andare al lavoro, e le danno questo stipendio, gli sta bene. Però mettiamo che uno che ha un'azienda ha perso cliente, non ha lavorato per tanti mesi, eccetera eccetera, e ultimamente tanta gente non vuole tornare più al nord. Lo stesso per quanto riguarda la zona vicina a Gaza. In generale la situazione economica è peggiorata parecchio, c'è stata una disoccupazione in aumento, e tante aziende hanno chiuso. Alcuni settori come il settore agricolo, il settore del turismo è in fallimento. Adesso parlavamo con mia moglie ieri, l'altro ieri, perché abbiamo ricevuto delle SMS. Per 3 anni ci tolgono gli stipendi, ci tolgono il 3% dello stipendio per 3 anni consecutivi per finanziare la guerra. Per cui se io prendevo 1000 euro, 3% viene tolto per 3 anni e non viene restituito, perché normalmente Israele, quando c'erano le guerre, ha un posto il prestito guerra, cioè ti toglie dei soldi e poi te li restituisce dopo 20 anni. Dopo 20 anni o qualcosa del genere, mentre questa volta non è un prestito, proprio tutti quelli che lavorano nel settore pubblico devono dare il 3% del stipendio, che per parecchie persone questa è una cifra, una percentuale importante, insomma. Se non ci sono altre domande possiamo anche chiudere. Mi sembra che abbiamo abbastanza. Niente, ringraziamo tutti quelli che si sono collegati e anche quelli che ascoltano via streaming. Grazie, alla prossima.